Radio 24 presenta Destini incrociati. Destini incrociati. Un programma di Giacomo Zito. Lo sport professionistico oggi è diventato soprattutto business. Attorno ai team più importanti e agli atleti più forti di tutte le discipline ruotano interessi economici vorticosi che spesso soffocano il romanticismo delle sfide e rendono decisamente pesante l'ambiente. La storia che vi andiamo a raccontare oggi costituisce una bella eccezione a questa dinamica. Parla di sport, di un campione, di un giovane imprenditore. Ma è una vicenda clamorosamente in controtendenza rispetto a ciò che siamo abituati a vedere nello sport professionistico. Il basket in Italia non è certo uno sport seguito come il calcio. Tuttavia, conta un numero decisamente consistente di appassionati. Il campionato italiano di pallacanestro si disputa dal 1920. Oggi la Serie A1 e la Serie A2, le due massime divisioni, sono campionati professionistici, ma lo sono diventati solo nel 1994. Le città che hanno raccolto più titoli nella storia del nostro massimo campionato di pallacanestro sono Milano, Bologna, con le sue due squadre, la Virtus e la Fortitudo, e poi Varese, Siena, Treviso, Cantù, Trieste. Insomma, le città tagliate fuori dalla geografia del pallone sono invece i capoluoghi dell'Italia del canestro. A Roma, la Virtus Roma, principale squadra della capitale, ha raccolto solo un titolo nella stagione 1982-1983. Finisce la partita, 95-83, il Banco di Roma è campione d'Italia. Battendo la Villi Milano nella finale scudetto, la Virtus Roma si aggiudica 27 anni fa il suo primo e unico scudetto. Era quello un periodo felicissimo per il basket romano. Infatti, oltre alla Virtus campione d'Italia, un'altra squadra nella capitale bazzicava con successo i piani alti della pallacanestro in Italia, la Lazio Basket. La Lazio Basket è una delle sezioni della società Polisportiva Lazio, quella che comprende anche la squadra di calcio, per intenderci, fondata nel 1900 a Roma in Piazza della Libertà, nel Rione Prati, inizialmente concepita come società podistica. Oggi la Polisportiva comprende 41 sezioni per altrettante discipline sportive, una complessità che la rende una delle più antiche e vaste società sportive d'Europa. La storia della Lazio Basket, però, è una storia travagliata, fatta di gioie e dolori, di successi e progetti falliti. Partita negli anni della sua fondazione dai campi più ostici delle serie minori dilettantistiche, la Lazio giunge negli anni 60 nelle serie più importanti, facendo la spola tra la Serie A1 e la Serie A2, grazie agli investimenti di imprenditori appassionati come il Cavalier Bevilacqua, il dottor Ildebrando Casini, il commendator Roberto Antonelli e il ragionier Ezio Giorgi. Nella stagione 1977-78 la squadra milita in A2 e una piccola rivoluzione nella struttura del team fa prevedere un campionato all'insegna di una lotta serrata per non retrocedere. In quegli anni le squadre italiane di basket potevano tesserare solo due stranieri per rafforzarsi. Nell'estate del 1977 approda a Roma un americano allora semi sconosciuto, destinato però a lasciare un segno indelebile nella storia di questo sport in Italia. È il nostro primo personaggio di oggi. Il suo nome di battesimo è Gary Cole, poi diventato Abdul Jelani. Abdul Jelani. Sono arrivato a Roma nel 1977, ma in realtà la mia prima tappa in Italia è stata Bologna, dove però sono stato preso. Così mi hanno ingaggiato a Roma. Abdul Jelani, il nome che Cole assume dopo aver abbracciato la religione musulmana, nasce nel 1954 a Bells, nel Tennessee. La sua famiglia si sposta nel Wisconsin quando è ancora piccolo. Così, vicino a Milwaukee, Abdul compie tutta la trafila del suo corso di studi. Quando approda al Wisconsin Parkside College, si capisce già che il suo futuro sarà il basket. Frequenta per 4 anni, dal 1972 al 76, la University of Wisconsin-Parkside, dimostrando subito il suo grande talento. Dopo il primo anno, chiuso con 15 punti e 12 rimbalzi di media in 24 partite, nelle successive stagioni alza le sue medie senza scendere mai sotto i 20,9 punti di media. Nella stagione 1974-75, la terza al college, gioca 33 partite segnando 23,2 punti con 10,7 rimbalzi di media. campionato professionistico americano, l'NBA, si basa su un sistema di trattative abbastanza complesso, il cosiddetto draft. Esso riguarda i giocatori ancora senza contratto, provenienti dall'estero o dai campionati minori. In base a un ordine stabilito da un sorteggio, le squadre scelgono nell'arco di due turni di chiamata quale giocatore, fra quelli considerati eleggibili, integrare nella propria squadra. Jelani viene chiamato al secondo giro dai Cleveland Cavaliers. È la scelta numero 50 del draft 1976. Non è il massimo, quindi. Per tutta la stagione non vede mai il campo. Un anno dopo, il 2 settembre del 1977, firma per i Detroit Pistons, dove resta soltanto per un mese senza mai giocare. Volevo fare esperienza, sentivo che anche a Detroit non avrei mai trovato spazio. Così ho tentato l'avventura in Europa. La prima tappa per Jelani è Bologna. Il Fernet Tonic Bologna, però, gli preferisce Bob Elliott. Chi la vede lunga, invece, è Giancarlo Asteo. Asteo è l'allenatore della Lazio Basket, un uomo eccezionale, che prima di dedicarsi al basket aveva lavorato in una casa di produzione cinematografica che tra i suoi film più importanti annoverava Il giorno della civetta di Damiano Damiani. Romano Verace è un ex giocatore che ha anche indossato 6 volte la maglia della nazionale. Forgiatore di quasi tutti i talenti usciti dalla capitale in quegli anni, Asteo è uno che sa sfruttare al meglio le risorse umane a disposizione. Capisce subito che Jelani è un talento da non farsi scappare e lo porta quindi in maglia bianco-celeste. Poche settimane. E quanto basta a Jelani per diventare l'idolo dei tifosi della Lazio, che allora si chiama Eldorado Roma. Nella sua prima stagione, Jelani mette a segno 33 punti di media a partita. È un'ala travolgente, 2,05 m, veloce, fantasioso, imprevedibile, dal tiro spettacolare. Il tipico giocatore nato per infiammare il suo pubblico, per diventare un idolo. La Lazio si salva. La seconda stagione va ancora meglio della prima. Jelani sfonda il tetto dei 33 punti. La squadra, costruita intorno a lui, vola. Arriva la promozione in A1. A quel punto potevo rimanere a Roma, invece ho deciso di tentare di saldare il conto aperto con l'NBA nei Portland Trail Blazers. Prima vera stagione NBA per Jelani, 77 partite, 737 punti. L'anno dopo sposa la causa dei Dallas Mavericks, una franchigia completamente nuova. Nel basket NBA esistono infatti le franchigie, così sono chiamate le squadre, che non sono legate indissolubilmente a una città, sono un'impresa economica che per vari motivi a un certo punto può decidere di cambiare la città che rappresenta, portandosi dietro nome, maglia, stemma, colori sociali, giocatori e tecnici. I Dallas Mavericks nascono dal nulla nel 1980 su iniziativa di Don Carter e Norm Sonju, che vogliono riportare a Dallas il grande basket. Per questo i dirigenti della neonata squadra chiedono l'expansion draft, una sorta di permesso di tesserare giocatori da altre squadre. È così che il 28 maggio 1980, in occasione dell'NBA All-Star Game, dopo aver pagato 12 milioni di dollari, nasce ufficialmente la squadra di punta della città texana. Jelani, nella stagione 1980-81 con i Dallas Mavericks, gioca 66 partite, segna 553 punti e infiamma il pubblico della Reunion Arena di Dallas. Gioca duelli infuocati con George Gervin, Magic Johnson, Kareem Abdul-Jabbar, Larry Bird. Però non sfonda. Ho avuto un'offerta irrinunciabile da Livorno, un contratto molto importante, e ho accettato. A questo aggiungiamo che ero molto affascinato dall'Europa e il basket italiano mi esaltava, lo trovavo eccitante, era di gran lunga il miglior campionato in Europa. Per Abdul il basket è soprattutto divertimento e fantasia. Proprio quello che sta cercando l'ingegner Boris, patron della Libertas Livorno, squadra di A2 che ha grandi ambizioni. Abdul torna in Italia. Boris affida la squadra ad Ezio Cardaioli. I due stranieri sono Abdul Jelani e Rudy Hackett. Accanto a loro, il precocissimo talento di Alessandro Fantozzi, destinato a diventare uno dei più grandi giocatori italiani. Il mix è esplosivo. La squadra conquista la promozione in maniera trionfale. Fighting, Gelani rimane a Livorno per altre 4 stagioni, fino al 1985. La squadra non vince nulla, bella ma incompiuta. Esprime infatti il miglior gioco della massima serie, trascinata dalle spettacolari giocate di Gelani, in quel momento riconosciuto come il miglior giocatore del nostro campionato, come ammette il grande Dino Meneghin. L'eleganza del movimento a me è sempre affascinato, perché io non ero proprio un grande ballerino, diciamo. E allora lui era uno di questi che dava proprio piacere agli occhi. Livorno si stringe come mai prima attorno alla sua squadra di basket. C'è chi paga il biglietto solo per vedere Gelani. Istrione e Gigione non nega mai un'intervista e si concede sempre ai suoi tifosi. Ma oggi è stata una partita che noi devi vincere, non c'era altro da dire. È stata, diciamo, la volontà che ha prevalso. Sì, quello di sicuro. Io non mi piace di avvicinarsi così alla zona di retrocessione. Io sono un giocatore vincente, la squadra è piena di ragazzi vincenti, e quello discorso lì ti lascia per qualcun altro, ma non è roba per noi. Nel 1985, alla ricerca di nuovi stimoli, Gelani migra in Spagna. 3 stagioni, poi la sua carriera si conclude a soli 31 anni. Il giocatore torna negli States, sulle sponde del lago Michigan, a Racine. Sembra destinato a un'esistenza tranquilla e serena. Invece, arriva il disastro. Tutto è iniziato nel 1995, quando mia madre è stata male, ha avuto un ictus. Purtroppo da noi in America il sistema sanitario non è proprio semplice, per cui mi sono trovato nei guai. Gli States sono una nazione che dà grandi opportunità, ma sotto certi aspetti attuano meccanismi in grado di stritolarti e di cancellare la tua dignità senza pietà alcuna. Assicurazioni e banche americane, ad esempio, sono lobby potentissime che perseguono la logica del profitto a ogni costo, talvolta approfittandosi del dolore umano. È quello che capita a Gelani. Stritolato dalle assicurazioni per garantire alla madre le costosissime cure, Abdul ipoteca la casa. Nel frattempo la moglie Amina, che gli aveva dato 2 figli, lo lascia, sprofondandolo in una violentissima depressione. Perde tutto, non riesce a restituire i soldi alle banche, che gli pignorano la casa. È solo l'inizio di un precipizio senza fine. Nel 2006 gli scoprono il diabete, l'anno dopo un tumore alla prostata, da cui guarisce al caro prezzo di 3 operazioni che gli prosciugano gli ultimi esigui risparmi. Abdul diventa un senza tetto. Il destino, lo sappiamo, segue vie imprevedibili. Abdul Gelani era diventato un idolo grazie al suo talento, al suo estro, alla sua fantasia. Poi il baratro e la polvere. Tuttavia, l'ex giocatore non può sapere che il fato gli ha già fatto incontrare l'uomo che lo riporterà nella vita e gli restituirà quella dignità che a nessuno dovrebbe essere negata. In molte delle trionfali partite giocate a Roma, quando era all'inizio della sua carriera, c'erano puntati su di lui gli occhi di un bambino che amava il basket e stravedeva per quel giocatore imprevedibile. Un bambino fra i tanti, certo, ma quel bambino, 30 anni dopo, scoperto il suo dramma, andrà a tirarlo fuori dal precipizio in cui era caduto. Quel bambino oggi è proprio il presidente della Lazio Basket e si chiama Simone Santi. Simone Santi. Di lui parleremo tra poco. Step one, you say we need to talk. He walks, you say sit down, it's just talk. He smiles politely back at you. You stare politely right on through. Some sort of window to your right. She goes left and you stay right. Between the lines, fear and blame. Destini incrociati. Oggi a Destini Incrociati vi abbiamo raccontato la storia di Abdul Gelani, campione di basket che a cavallo tra gli anni 70 e gli anni 80 diventa un idolo delle tifoserie di Lazio Basket e Libertas Livorno, finendo per essere considerato uno dei più forti giocatori mai transitati nel campionato italiano. Il destino però si accanisce contro di lui nel suo dopo carriera. Abdul perde tutto ciò che ha, stritolato da assicurazioni mediche e banche, prima per curare la malattia di sua madre, poi per far fronte all'improvviso divorzio voluto dalla moglie. Gelani in pratica diventa un homeless, un senza tetto. Lo restituisce alla vita un giovane imprenditore italiano, Simone Santi. Faccio parte di una famiglia di giocatori di basket, perché da mio nonno poi i suoi figli, 4, e poi mio padre, quindi, e 9 nipoti maschi, di cui uno ero io, abbiamo tutti giocato a basket, chi ha allenato, chi ha fatto dirigente, chi poi appunto giocatore. E nella, diciamo, la pallacanestro fa parte un po' del DNA familiare, peraltro è uno di quegli sport che ci ha veramente insegnato, io lo dico sempre, che mi ha veramente insegnato a vivere. Io poi nella vita ho fatto tutt'altro, mi sono messo a fare l'imprenditore, sono prima partito per l'Africa, ho fatto esperienze da dipendente in Africa, sono ritornato un po' di anni in Italia, ho fatto una mia azienda che si chiama Leonardo e che porta appunto le aziende italiane ad investire in Africa. E però devo dire che la pallacanestro non l'ho mai dimenticata, perché in realtà io me la ritrovo tutti i giorni, cioè mi ritrovo nella capacità di gestire persone, diversità, e anche nella capacità di gestire situazioni antropologiche differenti, ritrovo lo sport, che è, per me è stato uno sport che mi ha insegnato questo. Simone Santi è nato a Roma il 26 marzo 1971. È un giovane imprenditore italiano impegnato da tempo nell'esplorazione, nella valorizzazione dei mercati emergenti. La passione per il basket di cui Simone parla è quella che lo spinge, quando è solo un bambino, ad andare a vedere la sua squadra del cuore, la Lazio Basket, in A2, la Lazio Basket di Abdul Gelani. No, io quando lui giocava, avevo 8 anni quando lui giocava, per cui l'ho visto, nel senso che andavo con papà a vedere al palazzetto dello sport di Viale Tiziano, dove oggi gioca la nostra prima squadra, io andavo da bambino a vedere le partite. Dopo che i destini di Gelani e della Lazio Basket si separano, non è solo la vita del cestista americano ad andare a rotoli, ma anche quella della squadra romana. Dopo diverse peripezie, retrocessioni d'ufficio, fallimenti, la squadra viene addirittura cancellata dalla federazione nel 2005. Un dramma per tanti tifosi come Simone Santi, il quale, innamorato dei colori biancocelesti, decide di investire sulla squadra e di ridarle vita e dignità. Santi acquista la società e si ritaglia il singolare ruolo di presidente giocatore. Nel 2007 si iscrive al campionato promozione e poco dopo il consiglio direttivo della Polisportiva Lazio la riammette nelle proprie fila. Nel 2008-2009 la squadra vince il campionato promozione e ottiene il passaggio in Serie D, dove milita tuttora. Santi però ha un progetto più articolato, che parte dal basket e va ben oltre. La pallacanestro è lo sport delle diversità, perché se uno vede una foto di una squadra di basket, ha due playmaker che sono alti più o meno sull'1,70, 1,60, 1,80, e poi dopo ha una squadra di persone che superano i 2 metri. Già questa diversità fisica fa capire. Poi la pallacanestro è lo sport che ha dato la possibilità a persone che venivano dai ghetti, che venivano neri negli Stati Uniti, insomma colorati di tutto il mondo, di integrarsi. Certo. E allora, quando qualche anno fa ho deciso di, appunto, da imprenditore, da giovane imprenditore, ho deciso un po' di riprendere in mano una squadra di basket, ho ripreso in mano la Lazio Basket, che era fallita, un po' perché la mia famiglia, mio padre aveva giocato negli anni 60 in quella squadra, mio nonno l'aveva allenata, e perché era una tradizione della città dove io sono nato, e perché l'idea era quella di ridargli un valore. Purtroppo la società era fallita, invece di ridargli un valore, ripartendo proprio da un progetto che oggi si chiama Colors, che è un progetto di recupero dei bambini delle periferie. Colors è il nome del progetto che ruota intorno alla Lazio Basket. Uno splendido progetto che usa la pallacanestro per fare integrazione e riscattare l'esistenza di tantissimi ragazzi e bambini sfortunati che vivono nelle periferie di Roma e di altre città italiane. La società è stata rifondata nel 2007, alla fine del 2007, e quindi ha fatto il suo primo anno sportivo 2007-2008. La Lazio Basket ha deciso il nome è un nome glorioso che purtroppo negli anni, come ho detto, era andato via via scemando e aveva avuto dei grandi problemi, e la società ha iniziato a riaprire il primo centro in uno dei punti più duri della città di Roma, che è il quartiere di Corviale, il famoso quartiere che ha un palazzo lungo un chilometro dove vivono 5.000 famiglie, separato dal resto della città, e quindi insomma, da immaginarsi solo l'ambiente. Siamo partiti lì, poi abbiamo aperto un altro quartiere che si chiama Laurentino 38, che anche lì è molto duro, e dove abbiamo aperto il centro che si chiama Barack Obama. Abbiamo avuto l'autorizzazione dal Presidente degli Stati Uniti, che era da 4 mesi Presidente, per aprire questo centro, in quanto abbiamo preso il simbolo appunto di un nero che è riuscito nel suo successo e che comunque è un grande amante del basket. E da lì abbiamo continuato. Oggi siamo ad un numero di 12 centri in Italia, 700 bambini di 27 nazionalità differenti, e poi abbiamo aperto con 2 orfanotrofi in Africa, abbiamo costruito dei campi da basket e stiamo facendo appunto in Mozambico, stiamo lavorando con bambini orfani per cercare poi di integrarli attraverso la pallacanestro e di dare a tutti questi bambini la possibilità un giorno di confrontarsi con la vita reale e magari di aver conosciuto, come è capitato a me nella mia vita, tante persone con pantaloncini e magliette confrontandosi sul campo da basket e poi ritrovarli nella vita normale e magari averne anche delle opportunità. Una mattina romana come altre, in un bar della capitale, circa 4 mesi fa, Simone Santi, probabilmente immerso nei pensieri dei suoi 1000 affascinanti progetti, sta facendo un gesto semplice. Beve un cappuccino e legge il giornale, il Corriere dello Sport. L'occhio scivola su un articolo firmato dal giornalista Andrea Barocci. Si racconta di un asso del basket diventato barbone, un ex stella in grado di far esplodere i palazzetti dello sport di tutta Italia con numeri straordinari, che trascorre stancamente i suoi giorni in un ospizio per senza tetto. Il suo nome è Abdul Gelani. Allora, quando 4 mesi fa è uscita la notizia del giornalista Barocci, che sul Corriere dello Sport ha fatto uscire la notizia che Abdul Gelani, grande campione della fine degli anni 70, e devo dire un'icona importante di quegli anni in cui la Lazio era una società forte, una società quotata, una società che era molto stimata. Insomma, questo giocatore negli Stati Uniti era finito homeless, quindi ospitato in un centro per barboni. Beh, insomma, ne è venuto così un po' spontaneo, un po' per il legame con questa società storica, un po' per i valori che un po' la mia famiglia e questo sport mi hanno dato, io non ho potuto fare a meno che iniziare a cercarlo. L'idea che si materializza nella testa di Simone Santi è subito chiara: riportare in Italia l'idolo di un tempo e coinvolgerlo nei tanti progetti della Lazio Basket. Il campione, nei playground di periferia, potrebbe insegnare basket, ma anche raccontare la sua esperienza di vita. Dopo una serie di ricerche che sono passate attraverso l'ambasciata, il consolato e una via di canali normali, alla fine addirittura tramite Facebook sono riuscito a contattare la figlia. Poi mi ha dato il contatto, poi abbiamo parlato direttamente col direttore di questo centro, però, che lo ospitava, appunto nel Wisconsin, e abbiamo contattato il direttore. Il direttore ci ha detto che Abdul si era comportato sempre bene in questo centro, che se volevamo potevamo richiedere il dossier con sua autorizzazione. Io francamente non me la sono sentita, ho parlato di richiedere il suo dossier, ma ho parlato direttamente con lui invitandolo a venire in Italia. E mi piace raccontare quel primo momento della telefonata, che erano nel mio ufficio, un po' in viva voce, con mio fratello e mio padre accanto, che mi ha dato una mano nella gestione della sportiva, e un po' con la mia voce emozionata, dall'altra parte ho trovato una voce altrettanto emozionata di una persona che aveva voluto sapere un po' qual era il progetto, e che quando ha capito che il progetto era quello di aiutare dei bambini nella loro crescita, ha detto: assolutamente, per me è sempre stato un sogno. Quindi l'idea nostra era quella di ridare ad Abdul l'opportunità di rifarsi una vita, dandogli l'opportunità di aiutare qualcuno. Quindi l'idea è aiutare Abdul dandogli l'opportunità di sentirsi vivo e forte. La reazione emotiva a quella telefonata in attesa per Gelani è forte e istintiva. No. Non me l'aspettavo, ci ho messo un po' a realizzare cosa stava succedendo. Ho avuto pochi dubbi, mi sono fidato subito di quell'uomo che non conoscevo. Ho sentito qualcosa nella sua voce, un'energia particolare. Ho avuto ragione, perché Simone Santi è davvero un uomo straordinario. Per Gelani, insomma, il destino, che l'aveva fatto sprofondare agli inferi della povertà, ha preparato una splendida forma di riscatto. Tornare nel paese che l'ha amato e cercare di essere una guida per tanti bambini in difficoltà, raccontando la sua esperienza esaltante e drammatica al tempo stesso. Who's to say what's impossible? They forgot this world keeps spinning and with each new day I can feel a change in everything. And as the surface breaks, reflections fade. But in some ways they remain the same. And as my mind begins to spread its wings. Destini incrociati. Oggi vi stiamo raccontando l'incrocio di destini tra Abdul Gelani e Simone Santi. Il primo è uno dei più forti giocatori di basket che abbiano mai giocato nel nostro campionato. Un campione che per rocambolesche vicissitudini finisce per diventare un senza tetto. Il secondo è l'imprenditore romano che riscatta la Lazio Basket nel 2007. Costruisce intorno alla società uno splendido progetto di integrazione e decide anche di gettare un'ancora di salvataggio al povero Gelani, richiamato in Italia dal giovane presidente dopo aver letto un articolo sul Corriere dello Sport che raccontava le sue disavventure. Rocambolesco è anche il modo in cui Gelani diventa protagonista di un articolo sul Corriere dello Sport. A Racine, sul lago Michigan, una piccola città di circa 80.000 abitanti, si svolge una serata per raccogliere fondi a scopo benefico. Location? Halo, centro di supporto per senza tetto. Partecipa per caso alla serata un imprenditore di una multinazionale italiana, appassionato di basket. Lo riconosce, si fa raccontare la sua storia, lo porta in Italia e questa finisce sulle pagine del quotidiano sportivo e infine fra le mani di Simone Santi. E da lì è stato un percorso di 4 mesi di lavoro per la documentazione, perché poi nel frattempo lui aveva il passaporto bloccato per via di alcune pendenze che aveva con il fisco, legato appunto alle separazioni che lo avevano anche un po' costretto nella vita a cambiare più volte documentazione eccetera, e quindi abbiamo un po' sanato tutta la situazione che lui aveva con il fisco e siamo riusciti poi a riavere il suo passaporto. Quando ha avuto il passaporto, anche lì mi ricordo che mi ha chiamato: mister Santi, finalmente ce l'ho in mano e sono veramente contento di poter ritornare in Italia. E allora abbiamo organizzato il suo evento. Questo è stato fatto insieme agli amici di Livorno, perché io ci tengo a dirlo. Abdul ha giocato 3 anni a Roma, dopodiché è andato a giocare a Livorno, dove lì, una patria che in quegli anni dava tanto al basket, ha trovato un grande affetto di persone, di amici che sono considerato veramente un grande idolo del nostro paese. Considerate che è un campione che faceva una media di 30-35 punti a partita, e addirittura quando era nel Dorado Lazio portò il Dorado in Serie A in una stagione incredibile, in cui l'altro americano, all'epoca si poteva giocare solo con 2 stranieri, l'altro americano durante l'anno morì per overdose, e quindi lui portò con un carico enorme la squadra a ritornare in Serie A. Per cui nel mondo della pallacanestro chiunque sente parlare di Abdul Gelani sa chi è, e diciamo il suo nome fa vibrare delle emozioni. Adesso vi raccontiamo la storia di un famoso giocatore di basket americano che era arrivato anche sui campi italiani, poi era diventato molto povero, una povertà che lo aveva addirittura costretto a vivere per strada senza una casa. Ebbene, adesso è tornato. Quello che sentite in sottofondo è un servizio del TG3. Lo scorso 15 gennaio, infatti, i media italiani dedicano ampio spazio al ritorno di Abdul Gelani in Italia e alla vita. Io devo essere onesto, tu, molti mi hanno detto ma sicuramente avrà avuto problemi di droga, problemi di alcol. Beh, io francamente non ho mai dato retta a tutto questo, ho detto lo voglio vederlo, voglio confrontarmi con lui, peraltro anche con l'aiuto, pensavo, della nostra psicologa che ci segue i centri, perché tutti i centri sono appunto per via dell'apporto sul sociale, sono seguiti dalla psicologa, voglio capire, stando insieme a lui alcuni giorni, com'è la situazione. E quindi lui è atterrato a Roma a gennaio, e una mattina alle 7:40 sono andato a prenderlo all'aeroporto, e nel frattempo si era sparsa la voce, quindi giornali, giornalisti, videooperatori hanno voluto accoglierlo insieme a me, quindi sono venuti addirittura la RAI, la troupe della RAI venne con me in aeroporto. E lui, come è arrivato a Roma, devo dire che pur non conoscendoci ci siamo dati un abbraccio, io dal mio 1,80 m, lui dai suoi 2 metri di altezza, ci siamo dati un abbraccio come se da sempre ci fossimo incontrati, e che un po' ha fatto anche un po' il giro del web questo abbraccio, e soprattutto lui appena arrivato ha detto io veramente oggi mi risento a casa. Questo è stato forse già da quello, insomma, io mi sono sentito gratificato di quello che stavamo facendo. Dopodiché abbiamo avuto un bel incontro tra lui e Dino Meneghin sotto la nostra sede e il mio ufficio che è di fronte a Castel Sant'Angelo, quindi in questo bellissimo panorama di San Pietro, con San Pietro e Castel Sant'Angelo dietro, è arrivato Dino Meneghin, contro cui lui aveva giocato e che attualmente Dino è presidente della Federazione Basket, che si sono dati un abbraccio a questo punto tra due giganti veri del basket di quegli anni, e con Dino che ha detto ad Abdul tu eri veramente il migliore, e Abdul che ha detto la stessa cosa. Dino a quel punto ha detto no, io ero solamente un artigiano. Questa bellissima storia troverà il suo definitivo lieto fine la prossima estate, quando Gelani inizierà ad allenare i bambini in un campo estivo della Lazio Basket, e poi da settembre si occuperà stabilmente di uno dei centri che il presidente Santi ha costruito nelle periferie romane. Per me, che li vedevo da bambini, io voglio dire, avevo le loro fotografie nella mia cameretta, per me sono state grandi, grandi emozioni. Allora, poi devo dire, la stampa, gli amici, tanti messaggi, e infine abbiamo organizzato una festa al Palazzetto dello Sport di Viale Tiziano, dove lui giocò, a cui hanno partecipato 1200 bambini, che sono i 700 bambini dei nostri centri, sono più di 600 bambini della nostra attività giovanile, e poi più di 1200 persone che hanno partecipato come spettatori. E questo per me, l'idea che lui rientrasse in un palazzetto festeggiato da un suo pubblico è stato secondo me è stato il modo di ridargli quella fiducia della vita di cui lui aveva bisogno. Ho trovato in Abdul una persona molto vera, molto schietta, molto pronta a trasmettere l'esperienza della sua vita, e soprattutto pronta a confrontarsi con un pubblico e a riconfrontarsi con questo sport che lui ha amato e che gli ha dato grandi successi. D'altro canto una persona abbastanza provata da quello che aveva vissuto, però senza vergogna anche di raccontarlo e di raccontare che di fatto la sua esperienza è stata un'esperienza anche sfortunata. Lo straordinario progetto di Simone Santi va oltre la splendida vicenda di Gelani. 12 centri, tra cui 2 in Africa, che vedono attualmente protagonisti 600 bambini e bambine di 27 nazionalità, 15 istruttori e una psicologa, più di 20 volontari. Poi la campagna Adotta un giocatore, che permette a chiunque lo desideri, attraverso il sito ufficiale della Lazio Basket, di occuparsi delle spese sportive di uno di questi bambini. Il progetto Adotta un quintetto, destinato alle società sportive, che possono invece finanziare una squadra composta dai bimbi che frequentano i centri del progetto Colors. Insomma, un progetto straordinario, speriamo destinato a crescere e a lanciare un messaggio chiaro e netto su cosa dovrebbe essere realmente lo sport per tutti, adulti e bambini. Thank you.